Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867, Roma nel ciclone, Garibaldi all'attacco. Per la città eterna, capitale agognata dall'Italia e centro della cristianità, sono ore decisive. Tutto in pochi giorni è precipitato. Garibaldi è fuggito da Caprera e ora è alle porte della città. Rattazzi, presidente del Consiglio, ha dovuto dimettersi ed è stato sostituito da Luigi Menabrea. Ma intanto i francesi sono sbarcati a Civitavecchia e finora i soldati pontifici hanno avuto la meglio in diversi episodi. Dopo l'arresto di Garibaldi a settembre, la penetrazione di volontari garibaldini nello stato della Chiesa non si è fermata. Poi, il 19 ottobre di questo 1867, Garibaldi è riuscito a fuggire da Caprera. Pare si sia fatto scivolare in una barchetta che si è avvicinata a un bastimento amico ed è sbarcato a Livorno. In Toscana ha provocato grandi entusiasmi al suo passaggio, poi avvertito da Crispi di un nuovo mandato di cattura e penetrato nel territorio pontificio dove si trovavano i suoi. A Roma però non succedeva nulla. O meglio, qualcosa è stato, ma il piano di rivolta si può dire in sostanza fallito, almeno finora. Il 22 ottobre due barili di polvere collocati nelle fogne sotto la caserma Serristori sono esplosi. Sono morti 23 zuavi pontifici di nazionalità francese e 4 popolani romani. Sono stati subito arrestati in due, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti. I due pare abbiano già confessato e stiano rivelando imbarazzanti retroscena su finanziamenti piemontesi. Il 23 ottobre si è tentata l'insurrezione, ma la cosa è finita male. La punta avanzata dei volontari, guidati dai fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, è stata attaccata dai pontifici a Villa Glori, nei pressi di Ponte Milvio. In 70 hanno provato a resistere, ma sono stati catturati e solo in pochi sono riusciti a fuggire. Due giorni dopo, il 25, la mattina, una quarantina di patrioti sono stati sorpresi da una pattuglia di zuavi nell'anificio Aiani. Alcuni congiurati sono riusciti a fuggire, ma altri sono stati catturati e sotto il fuoco sono rimaste uccise 9 persone, tra cui Giuditta Tavani Arquati, incinta, il marito e il loro giovane figlio. Negli stessi giorni Garibaldi ha preso Monterotondo con i suoi. La battaglia decisiva potrebbe essere davvero vicina, come ha confermato durante le prime battute al processo a Monti e Tognetti lo stesso pubblico accusatore pontificio. Giunge ora notizia che il noto pregiudicato Garibaldi, alla testa di una banda forte di 5.000 uomini e 5 cannoni, sta muovendo da Monte Rotondo su Mentana nel tentativo di entrare nel regno. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.